Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Ogni settimana due progetti, due idee, due storie che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, che potete trasformarvi rapidissimamente in investitori a sostegno di queste idee. La prima buona idea di oggi si chiama un pianoforte per l'Aquila. Si tratta di un progetto lanciato da alcuni jazzisti italiani che vorrebbero raccogliere, e questo è il loro obiettivo, 10.000 euro per acquistare un pianoforte a coda per i giovani musicisti abruzzesi da donare al Conservatorio Alfredo Casella. E è con noi Mirko Signorile. Buongiorno Mirko. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. È un pianista partecipante proprio a questo progetto, il pianoforte che si riusciranno a raccogliere i soldi sarà suonato in anteprima il 4 settembre al concerto inaugurale del Jazz Italiano per l'Aquila. Mirko, come nasce questo progetto per la città dell'Aquila e per la musica? Sì, questo progetto nasce in effetti sulla scia emozionale dell'evento che c'è stato all'Aquila l'anno scorso, la prima giornata dedicata interamente, che il Jazz Italiano ha dedicato interamente appunto alla città dell'Aquila. Eravamo a fine serata, io e Giovanni Guidi, che è l'altro pianista, insieme a Claudio Filippini, che fa parte appunto di questo trio formato appunto da me, Giovanni Guidi e Claudio Filippini, e pensavamo a una condivisione artistica, innanzitutto fare un progetto artistico. Parlo appunto di scia emozionale perché l'Aquila è stato, l'evento certo. Che si è fatto all'Aquila era bello proprio anche per questo, perché i musicisti si ritrovano tutti insieme per la prima volta senza senza quelle rivalità che certe volte si creano in automatico. C'era una bella voglia di sostenere una progettualità comune. Per cui con Giovanni parlavamo di questo, parlavamo della voglia di fare un progetto artistico a tre pianoforti. Qualche settimana dopo, parlandone, è nata questa idea, cioè l'idea di associare al progetto artistico appunto un progetto di solidarietà, un gesto che potesse essere ancora più stimolante per noi e potesse essere anche uno stimolo per tutte le persone che poi si sarebbero avvicinate a questo progetto. Certo. No? E allora abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto per l'appunto regalare un pianoforte alla città dell'Aquila, la città dell'Aquila che porta ancora purtroppo i segni di quello che è stato il terremoto del 2006 e che sta cercando lentamente di tornare, come si dice, ad una normalità, ma la strada, lo sappiamo, è lunga, l'abbiamo raccontata tante volte anche noi. Le nostre domande normalmente sui progetti di crowdfunding sono: come lo spieghi alla mamma, a mia Carlo? Nonna, però questo era facilissimo da spiegare perché sì, era molto chiaro. Sì, è molto chiaro. L'altra domanda non l'ho posta. Cosa farete con i soldi? Ma anche questo è chiarissimo, volete comprare il pianoforte? Io ti chiederei le ricompense, perché sappiamo che il crowdfunding funziona così: si dona, ma si ottiene una ricompensa, a volte simbolica, a volte meno. Cosa avete pensato per gli investitori? Ma in realtà noi stiamo pensando a tante cose, tra cui ci sarà un CD che produrremo appunto di questo progetto a tre pianoforti. Poi ci sono magliette, ci sono spille, c'è la possibilità appunto di partecipare al weekend che si terrà all'Aquila a settembre, il 2, il 3, il 4 settembre. E, insomma, più o meno sono queste tutte le ricompense che stanno all'interno del progetto. Benissimo, Mirko Signorile, questo era il progetto Un pianoforte per l'Aquila, l'obiettivo 10.000 euro. Vi ricordo, tutti i progetti sono selezionati da Apple e Back to Work 24. Il prossimo, la seconda buona idea di oggi è Ti Assisto 24, si chiama così, il primo servizio di car helper online che risolve tutti i problemi legati all'auto. Ti ricorda le scadenze, ti propone degli sconti, ti aiuta a gestire l'assicurazione, le multe. Le multe, soprattutto le multe, visto sogno. Che abbiamo appena sentito l'ex capo dei vigili. Anche in questo caso l'obiettivo è raccogliere 10.000 euro. E con noi Michele Romagnoli, fondatore di Ti Assisto 24. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, perché questa sera invece di andarmi a fare la solita pizza e birra dovrei investire 10, 15, 20, 100 euro nel tuo progetto, nel vostro progetto Ti Assisto 24? Ti Assisto 24 ha l'obiettivo di aiutare finalmente in un unico posto, in un unico portale, gli automobilisti, quindi chi gestisce realmente tutti i giorni l'auto, e trovare lì i servizi reali che servono per poi far risparmiare tempo e denaro proprio chi tutti i giorni poi deve portare avanti la vita, e sappiamo che l'auto è arrivata ad avere diciamo un peso troppo importante sulla vita quotidiana. Parliamo sia in termini, noi vorremmo in realtà limitare il peso dell'auto nella vita quotidiana, quindi forse in questa app sarebbe bello che ogni noi tanto ti dicesse talebani, ma sì, perché non prendi la bici, così scritto in piccolo. Sì, no vabbè. L'idea è comunque di allargare la gamma dei servizi, ad esempio, sì, proponendo in futuro anche l'integrazione con di car sharing, quindi alternativa all'auto, ecco, oppure tutti i mezzi a zero chilometri, voglio dire, per la mobilità all'interno dei centri abitati. Però noi vogliamo partire l'idea è quella di dare dei servizi reali ed utili, come ad esempio il servizio per far ipoteticamente ricorso, valutare c'è possibilità di ricorso alle multe, perché ricordiamo che è l'unica app oggi presente dove è possibile dalla foto, ecco, del verbale ottenere in 36 ore un parere, ecco, rapido da parte dei nostri legali per capire se c'è la possibilità del ricorso, perché oggi le leggi, no, purtroppo tante e diffuse cambiano troppo rapidamente, non permettono all'utente cittadino appunto tutti i giorni di poter capire se nel torto quasi o mai, nella, quasi nella, quindi, nella. Quindi no, ma questa mi sembra una parte interessantissima, nel senso che uno fa la, sì, foto alla propria multa e voi, esatto, entro 36 ore dite guarda che si può fare ricorso, la condivido, hai speranze, esatto, oppure non hai speranze. Davide, esatto, sta scaldando le dita sulla chitarra, però gli chiedo di attendere un secondo, perché in realtà voglio chiederti intanto perché avete scelto il crowdfunding per finanziare questo progetto che insomma ha già un suo sviluppo al momento, è più che una startup. Esatto, siamo già attivi da quasi 2 anni e l'idea è quella, ecco, siccome il tema dell'auto è le persone che gestiscono poi l'auto e non spesso notiamo che il nostro target non è smart e quindi raggiungibile facilmente tramite i canali social, ecco, allora questo strumento ci è piaciuto appunto per divulgare e far conoscere ancora di più questa idea che è solo agli inizi. Ok, un modo anche insomma per farsi conoscere il crowdfunding. Vi chiedo allora in 30 secondi ciascuno di rilanciare il vostro appello agli ascoltatori potenziali investitori. Cominciamo con Mirko Signorile, pianista, per il progetto Un Pianoforte per l'Aquila. Mirko, in 30 secondi convinci i nostri ascoltatori. Allora, io in 30 secondi voglio dirvi che il pianoforte è uno strumento bellissimo, è anche un segno di cultura, ma che la musica non è soltanto cultura, è anche cura dell'animo. Per cui vorrei che ci aiutaste a racimolare questa cifra di 10.000 euro per donare questo pianoforte al Conservatorio dell'Aquila. Il Conservatorio dell'Aquila è un conservatorio stupendo, si chiama Alfredo Casella, e loro sono in un prefabbricato perché dopo il terremoto dell'Aquila, purtroppo la loro sede storica... Ecco, va bene, tempo scaduto, leggermente sforato. Mirko Signorile, se vi ha convinto andate sulla piattaforma Eppela e sostenete il pianoforte per l'Aquila. E adesso Michele Romagnoli, in 30 secondi, ti assisto 24, perché? Perché? Perché vogliamo essere sempre di più vicino al cittadino e alle esigenze quotidiane di chi deve usare l'auto, muoversi tutti i giorni e risparmiare tempo e denaro. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno, per poter diffondere sempre più l'uso e la conoscenza di questa tipologia di servizio e renderla sempre più usabile e facile appunto per tutte le fasce d'età e per tutti i target di persone. Quanti secondi ho? Qualche secondo 30, prima del traffico. 30 secondi anch'io, sì. Quindi mi chiamo Crowdio, sono un crowdfinder. Siamo riusciti a ottenere un pianoforte per l'Aquila e ci stiamo organizzando per dare un violino al falco. Mi chiamo Carl Hepto e sono un car helper. No, questo era troppo. Questo era troppo anche il violino per il falco. Va bene, allora vi ricordo, intanto ringrazio i rappresentanti del progetto Un Pianoforte per l'Aquila e Ti Assisto 24. Potete scriverci a crowdmeup @radio24.it. Un ringraziamento a Eppela e a Back to Work per la selezione dei progetti. Crowd Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela.